hai? Aspetta, comandante. No, comandante no. Mano i microfoni, dai, veloci. Ma che microfono vuoi? Boh. Uè, pompolio. Beh, come andiamo? Tutto a posto, e tu? Sto bene? E io abbastanza, sì. Vabbè, non c'è nessun altro. Boh, non lo so, aspetta un secondo. Claudio, Claudio, Crosperviero, Claudio, Claudio, Crosperviero, i cupani. Sei Sadana, il Cofani. Ehi, campa campa, Eugè, che ti passa? Ehi, aereo portuale. E allora, ciao Antonello. Ebbene, Carlo, come va? Tutto a posto? Eia, tutto come ero al computer, ho acceso adesso e vi ho sentito. E non credo che ci sia nessun altro, perché... serata un po' mutta questa, comunque dai, com'è lì il tempo, il vento è calato, Eugè? Tutto a posto, tutto a posto, chi vi ha parlato sopra Carlo? Eia, eia, va bene, è qui lo stesso, la serata è tranquilla, tranquilla, tranquilla, diciamo che il tempo volge al meglio dopo le sbuffate dei giorni scorsi che hanno rotto un po' le scatole. Sì, io oggi ho una serata bella, tranquilla, domani ha messo anche bel tempo, io ero giù in moto, sono entrato adesso. Ho visto, anche io sono uscito prima, adesso mi sono messo comodo e mi sono messo al computer qua, acceso la radio e diciamo ancora un po' a freddo, dai, questo 140, e quindi non lo so come ti arriva lì il mio segnale. No, va bene, dai, se non è altissimo il segnale, ma ti sento. Va bene, dai, l'antenna. Spero nelle prossime settimane di riuscire a migliorare come antenna. Adesso vediamo un po', qualcosa ne uscirà fuori. Vai Antonello! E sta, lei sta alla frega, te l'ho detto io. Ti ho dato la caffetta pippetta, quindi al 100%. Non costa niente agganciare un'antenna di lì e sei a posto. Ehi, sì, Antonella, già adesso vedo un po', dai, aspetto che faccia un po' di bel tempo, capito, e che mi dia un po' di tregua, perché se ti metti a fare che c'è vento, che piove, è un casino, e devo avere anche un giorno libero, capito, che coincida tutto e poi forse riuscirò anche a migliorare di segnale. Già lo so, non ti preoccupare, anche devo fare quel lavoro, già lo sai, quello per mia nipote, quindi a un certo punto, in pratica, installare l'antenna nel telefono, il palo ce l'ho, sollevato da 3 metri, almeno con l'Americo di caffè riesce a parlare la baracchina, più che altro. Poi se quando vuole usare che lo usi, a un certo punto, quando non vuole usare pazienza, a un certo punto va bene così, hai capito? Tutto lì. Anna Benemera, Eugenio, il 140 ti stai abituando? Scusa Carlo, dimmi che non ti ho sentito. Ho detto col 140 ti stai abituando. A voglia, io ce l'ho già qualche anno il 140. Ah, quindi già lo conoscevi, ce l'avevi già, io pensavo che fosse, insomma, di questo periodo. E mi sa che Antonello pure c'ha il 140 adesso. No, ma se trovo bene lo vendo. Lo vendo perché voglio passare a diversa marca. Ah, ok, già ce ne sono in circolazione di questi, ho visto, che un po' chi più chi meno lo tengono ancora, capito? Ma tu lo vendi con 140? sbaglio naturalmente. Fuma, fuma! No, no, perché c'ho... Ho trovato che cazzo. Ah, fa un culo, cazzo, guarda. C'è questo cazzo di tosse di merda. E quindi cazzo devo usare il miele. La colpa è la mia, perché altro, eh? Perché invece metto a mangiare la roba bollente con la roba fredda, e capisco quella qua fredda, quindi a un certo punto mi ha inculato. Sì, ma non ti hanno inculato bene però. Cosa detto quello? Ti dovevano inculare più bene. Non ti hai capito la verità, non so ma con chi sei, vivo di tu. Purtroppo è così. Se tu bevi roba bollente e poi mai bevi l'acqua ghiacciata, cazzo, è logico che ti farà una cosa del genere. Il discorso è quello lì. Non è che sia la freddore. Ah, fanculo, non è Covid, non è Covid, stai tranquillo. Ah, fanculo a me, cazzo. A volte, cazzo, faccio cazzate, cazzo. Devo mangiare una bollente di popolo, cose del genere, poi la birra, cazzo, per dire che ti danno al bar, cazzo, che è congelata, cazzo, se la bevi, cazzo, ti crepa, il discorso è quello. Un po' di sbarrocillina ce l'ha voluto. Che mamma la portate, Barù? Beh, voglio minchioni con ci vuole. Cosa avete? Non ho capito niente, avete fatto in tre. Ha giudizio, il rumore è lì, non è importante. No, ma c'era uno parlando sotto, non c'era importante. No, quando stavi tossendo? Break! E tu ci quanto vuoi. Distratto. Ah, ho capito, vabbè, non fa niente, frega, se c'era importante. Pazienza, chi se ne frega. L'importante non ne venga la testa anche a lui, che ci deve avere secco. C'è stato un break, mi sa che Gianni, avanti, avanti il break. Buonasera a tutti. Ciao Carlo, ma ora ci sei tu, tutti gli altri lo abbiamo sentito, che strano. Va bene, buonasera a tutti. Antonello, non ti uscire se non mi contagi. No, posso uscire se ti contagio. No, no, non ti preoccupare. Non è... non mi ricordo il nome, cazzo, adesso, come cazzo si chiamava, a di pai secondo, cioè in pratica sarebbe stai tranquillo, cazzo, per il contagio dietro, il discorso è quello, ma comunque sì, va bene lo stesso, dai, scherzavo Antonio, a volte a chi tocca, dai, io sono entrato adesso, non so chi ci sia, avanti, prendi tu il mic o Carlo fa girare. Sì Gianni, buonasera, sì, siamo io, Antonello, c'è Eugenio a Porto Torres e poi non lo so, mi è sembrato un Antonio in barra mobile, ma non ne sono sicuro. Avanti Eugenio. Ehi, buonasera, scusate, mi sono allontanato, chi è entrato? Ciao Gianni, doppio root. Ciao Eugenio, dai, mi hai sentito anche a te. Poi ti sento più pimpante. Perché non giro in moto e sono contento. Non però freddo. Com'è? Non ce n'era freddo, ho detto in moto. Ah, ma io ho raggiunto la testatura, non ce n'è problema. Io posso andare anche sopra la neve, non è un problema. Vabbè, anch'io ce l'ho bevuto. Anzi, c'ho qualcosa ancora, c'ho il giubbotto e i guanti, mi sono rimasti. Anch'io scendevo al conduttore, so che con la pioggia di rotto non mi entrava la luce all'acqua con il giubbotto, è micidiale. Avanti Antonio, se ci sei. No, no, non c'è Arturo, no. Deve essere, non era lui. Non lo so Gianni, c'era qualcuno sotto che, ho visto che ha cercato di entrare, ma era basso di segnale, capito? Andava e veniva e quindi non lo so. C'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10? E ancora presto, vai, già entrano dopo. Noi siamo Ghizzurai. Esatto, esatto, io lo stesso, mi ha acceso poco fa, ho sentito Antonello e Eugenio, adesso sei entrato tu, non credo ci sia nessun altro, capito? Niente, serata buona, dai, prima sono uscito, c'è un po' di freschetto, ma non più di tanto, dai. Speriamo che faccia un po' di bel tempo adesso, perché era un paio di settimane che ci stava tartassando tra pioggia e vento, e quindi se ci dà un attimo di tregua, ben venga. Vai Gianni. E ora mi ha preso quel virus gastrointestinale, sto morendo, non riesco a digerire, c'ho nausea, per carità, aria da tutte le parti, sono veramente male, caro. Sono da ieri così, anche stanotte, tutta la notte così sono stato. Ma è così, ce l'ho anch'io, guarda, già, ce l'ho anch'io. È un virus, se non ti fa, ma io non ho mangiato, ieri notte non ho mangiato niente. Ma qui io, la verità, ma comunque sia, a un certo punto, cosa devo fare, mi sono preso un po' di, come ti posso dire, mandarini, quello che è, mele, mi ha detto solamente quello e basta. No, io proprio nulla, avevo una nausea allucinante, mi ha cominciato ieri, dopo che sono tornato con cara, ha cominciato questa nausea, bruciore di stomaco, di tutto e di più. Vabbè, stavo per mettere il televisore in bagno. E anche la poltrona fuori di bagno. O il divano. E allora. No, il divano non che devi c'è bisogno di un uomo. A parte chi vuole entrare. Signor Gianni, buonasera a tutti. Ciao Tore, buonasera a te, avanti. Tore, stai uscendo uno schifo? Davvero? Aspetta un attimino, a me non sono a caduto ancora. Siamo così a caduto. Aspetta che abbassiamo appena. Guarda dove l'ho messo. Adesso sto migliorando. Sì, l'ho abbassato appena di amplificazione. Che cos'è questo apparecchio? Che apparecchio è? Che domani hanno? 104. Hello. Stavo uscendo un cupo, non so se era perché c'era troppa potenza. Stavo uscendo con 50 watt. È esagerato. Ma quello lì, quello che c'aveva con l'anima di coso, è lì. Come si chiama? Non me lo ricordo più. No, Gianni, questo è arrivato da fuori, è arrivato. Ah, ecco. Acciugavito. E non te spiego. Ah, non spiegare nulla, che vivono un anno o due, addio. Scherzando, non ti arrabbiare. E detto come va? Come ti vuoi di andare? Una mano all'altra, mi rabbasso. Vabbè, cosa vuoi farci? Pazienza. Mi sono peggio di te, guarda, la verità. A un certo punto sono in mezzo ai casini, cazzo. Sono una cosa all'altra, cazzo, sono in mezzo ai casini. Quindi a un certo punto. E se no sei stato tranquillo. No, non ha capito Antonello, no. Lo spiegaglielo tu. E cosa devo spiegare? Non connette lui, Antonello, sta male. In che senso lo connetto? Non comincia a me. Avanti, capo. Buonasera Tore, ben sentito, sì, segnale sempre buono, era forse il microfono prima che ti faceva uscire molto cotonato, capito, ed è lontano, però adesso già va meglio, Tore. Buonasera, vai Eugenio. Ciao, ciao, già è migliorato, dai. Solleva leggermente, ma leggermente un po' più l'amplificazione del microfono, ti sento basso di radio. Questo non era di cosa, no, era alto di cosa, di potenza. Era alto, l'ho abbassata. Il microfono aspetta a vedere. Se abbassiamo. Guarda a vedere adesso. Il processore inserito ce l'hai tu? No, non è inserito, no, è la potenza che era la, troppo, era, stavo facendo con 50 watt, adesso stavo abbassato, ho abbassato anche il microfono, il mic. Io oggi faccio fatica a capirlo, di solito è chiaro. Guarda a vedere adesso. Se ne va ancora. Butta la mano. Ah, si è sparito di là. Sono qua che c'è la circa, da magari che non ci credo. Allora, se vuoi la C e metti il magari sulla C, hai capito? La levetta, se c'è un 140, mettilo sulla C. Basta, hai fatto tutto quello che devi fare. Ah, sei sulla C, guarda a vedere. La C l'hai sollevato, sì? Sì. Sulla C. Io ti sento basso. Vabbè, non spinge, non so perché, ma non spinge, cazzo, è strano. Solleva ancora. Non ha inserito il processore, Ali. Prova il processore, se il processore avrei. Guarda, così è inserito. Sale di più. Com'è che è? Tore, lascia così, va bene come è inserito il processore, tornata la tua voce di sempre. Lascialo così col processore inserito. Ma ridotto il strano, prima ci aveva. Vabbè, ognuno c'è il suo, si diceva quello. Poi non lo so. Io, vabbè, a me mi sta bene col processore inserito. Se, allora, facciamo così, dato che bisogna stare col processore inserito, a un certo punto, non lo so, cosa avete di fare? Ecco qua, così mi dice inserito, come sto uscendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa schifo o come esce? Dopo sei sciatto. Esatto, grazie, ti ringrazio. Comunque, meno male è stato qualcuno lei che carice le cose. Allora, col processore inserito, in pratica, togli la fatturazione. Così esce chiaro, senza toccare nulla. Allora, senza processore vai bene, col processore fai schifo. Buonasera a tutti comunque. Ciao Daniele, buonasera. Buonasera Daniele, Carlo da questa, c'è Eugenio, c'è Tore, avanti Tore. Guarda vedere adesso se sta uscendo bene. Adesso sì, Tore, adesso riesco a capirti. Ciao Daniele, se mi ascolti. Buonasera. Aiti, non ci arriverò mai. Io un controllo, tu che sei più forte. Mi sento che sono arrivati, una volta. Daniele, riprendi, dai. Dammi un segnale, un controllo. Prova. Guarda, un po', 1, 2, 3, 4 e 5. A me mi servono 4 di segnale. Masso? 4 di segnale. Daniele, non come prima, perché ha passato un po' l'antenna e stava dopo ballando questi giorni. Va bene, va bene, poi Antonello non lo so, perché gli altri ho sentito salutare, però sono tutti quasi mezzo a QRM. E a me non mi dicevi? Eugenio, con l'ottore, mi ascolti? Ok, no, beh. Non mi chi positivo, va bene, va bene. Antonello sta arrivando a 9.5. Daniele, a me mi stai arrivando qua sulla mia antennina da balcone con un Santiago di 7 con picchi positivi, radio 4, però ti sento, ti capisco molto bene. Che è Carlo che sta parlando? Kappa Daniele, Carlo, c'è anche Tore, Antonello, Gianni e Eugenio. Pio, lo sento, cosa ha detto Gianni? Che ci sono anche Carlo, Eugenio e Tore, eccetera, ti stanno elencando le persone che c'erano. Vai per Tore, dai, poi vediamo un po'. Io ti dicevo così, Tore, come lo dicevi di segnare a Daniele? Santiago 9, 9, 5 quasi, dai. 9, 5, ma Daniele? Da me arriva così. Vabbè, scusate che controllo, se anche abbiamo abbassato volontariamente qualcosa. Meno mi vede educato a lui, non c'è nulla. Oh, ci sta, già, ci sta, per carità, perché ho abbassato l'antenna lì parecchio pure adesso. E niente. Provo a sapere giusto per farmi se sta funzionando tutto, dai. Daniele, attento Daniele, mi ascolti, porto Torres, Eugenio. Oggi, la faccia che non ti ascolta, Cosa hai detto? Perché il Torres mi sta arrivando tre, ma quasi quattro, ma regalato quattro, E lui l'azione lo sento proprio lontano. A me mi accoppi. Ma te ti accoppio Claudio, 5 e 6 adesso. Sto provando qua la situation. Daniele adesso sei salito a 7. Sei sicuro la zicchella di ciocca. Adesso Daniele. Avete parlato in 4. Cosa hai detto? Ciao a tutti, buonasera. Cosa hai detto, Eugenio? Ho detto fammi provare, sto cercando di parlarlo e parliamo 17. Fedimi provare un attimo, che cazzo. Daniele, lo senti a Eugenio? No, claro, perché mi sento il QRM. Io sento a te, a Gianni e a Antonello Pomponio. Paolo, ma Carlo ho sentito proprio passo Santiago 3, ma proprio mettendoci l'orecchio sopra l'apparecchio. Però non riesco ad ascoltarlo. Noi gli altri, zero. Arrivano sì, ma non capisco. Daniele! Sì, già! Adesso sei aumentato a 6 e mezzo, cosa hai fatto? Niente, già! Devo mettere la mano sull'apparecchio, perché se tolgo la mano sul quadrato tre quarti mi si innescare. 7 qua, e oggi non ti sente perché c'è un medico RM, Daniele. Ma io a Itti non ci arrivo. È negativo per me, mi tiri, non ci arrivo. E qua sei il segnale tuo, sei tra l'8 e il 9, mentre Daniele è 7. Buonasera a tutti, circolari, cambio. Ciao Claudio. Gianni, abbassa, cosa hai attaccato? Ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Che non ho attaccato niente. Ma vai, attaccato, ho ammazzato in varia. Io vivo con l'occhio sopra lo smitter. Ma quando attacchi già si vede. Ciao Antonio, buonasera, molto pompa, Carletto, mi sembra vestito anche attore squalo, conosci Magettisci, Eugenio, Gianni, insomma, circolare a tutti, dai, che sto cucinando ma vi sto ascoltando, cambio. Se va il cuoco stai facendo qua. Sempre, amore mio, a me mi piace cucinare, sto facendo la colatella in umido col vino bianco, la cipolla l'ho comprata stamattina, ma ci vado matto. Una volta alla settimana la faccio, sempre il fine settimana, il venerdì. Ed è una cosa squisitissima, poi insalata, un bicchiere di vino e felicità. Aia, nuda. Colatella Daniele. No, Daniele, il vitello, no, Daniele è troppo bisante la notte, il vitello, bella, tenera, pulita, tutto, anche i gatti, l'altro giorno cazzo esco, mi sono spaventato, sono uscito a fumare, c'erano due gatti enormi, i gatti, Mariani, due cani, mi dici chihuahua, Mariani, ma mannimi, allora ho visto che vengono lì vicino al cancello, a parte quella dura, no, eccetera, della curatella, quello lungo, a me non mi piace, così, la gente lì ha due tappezzi, gli ho messo anche un po' di crocchette, e l'ho messo fuori dal cancello, sono uscito poco fa, non viene più, adesso sono già passati. ma se no le burracci ne approfittano anche i cinghiali. Sì, ma qua non c'è neanche una macchina, la verità, poca roba, proprio qualche luna nel sacco di passaggio, ma no, non c'è, non posso così tranquillo, né gabbiani, nuda, piccioni, o nuda. L'unica cosa è che ci sono gli storni, perché ci sono degli alberi di olive giù nell'altra vallata, quindi stanno tutti lì. Infatti l'altro giorno va via la macchina tutta gaggata, l'ho avuta tutta a sfruttare con l'acqua al detersivo, perché passano tutti assieme e fanno un casino aereo. Però corvi, queste cose così non ce n'è qua, meglio così. Va bene, allora mi allontano un attimo a controllare la mia coratella, al cambio per Carlo, a girare per tutti gli altri. Cappa. Benevena Claudio, coratella, cipolle, vino bianco, perfetto, anche a me piace. Va bene, riprendi Antonello. Avrei portato il pigiatino domani, amore mio, ma devo dare la mia figlia, se no quella mi dice. Ma che ci rivede tu, capo e bugnetta? Perché sono andato a rispondere, capo, e ho ricevuto questo microfono del VHF. Stavo parlando 145525. Torra, chiediti qualche colpo di bugie a te. Io come sto? Dai, mi allontano un attimo, arrivo subito. Allora, domani verso le 3:30 transito vicino a Sassari, col campo. Chiamo, che mi dovete controllare se sta andando bene l'apparato. Ok, quindi non coricatevi e non rompete. Ma quello del camper oggi? Come? Quello del camper? Sì, domani, boh, 3:30, così passo lì a Sassari, che devo scendere a Cagliari. E già acceso qua, non c'è problema, tanto a quell'ora io sono ancora in piedi, poi verso quell'ora lì mi dai un po' a sgranchirmi le gambe al divano. Dai, mi allontano un attimo, fate girare la ruota, ci sentiamo tra 5 minuti. Ma fa poco. No, non preoccuparti, ho sbagliato il microfono, capita a tutti, già lo sai, capita anche a te, addirittura, di parlare a posto di 27 dove vai in un'altra frequenza. Antonio, già lo sai che a me, te l'ho già spiegato, non mi fa né caldo né freddo, non me la futti due più ruda. Bisogna sempre avere un po' anche di mano larga, si può sbagliare, no? E la prima volta ci vuole vedere il Maggio 3 MC60 e a volte invece di schiacciare quello da 27 schiaccio quello, magari adesso sono in 80 metri, magari sbaglio e vado a parlare in 80 metri, ma non me ne affutti nulla. Dai, arrivo subito ragazzi. Almeno io l'ammetto, però il discorso è quello, almeno quello c'ho di giusto, quindi per quello mi sono messo a ridere, non per altro. Vabbè, 5 minuti e sto diventando subito, sto facendo una cosa veloce, se no io cucino per Simona, se no mi cucino il microfono, mi cucino. Oh signor, Eugenio, riprende. Ehi, sono qua e sto ascoltando. E allora già, che si dice? Che si dice? Andate un mare, il tempo ha migliorato un po', dai. Non c'è più quel vento, è già tanto. Che si possa uscire almeno domani, perché sono così aggregato in casa, vento, pioggia, questo e quell'altro, sono già 2 giorni in casa che adesso mi scende solo qui per portare il cane, una passeggiata e via, e poi me ne rientro a casa subito, o per fare la spesa, ma ci vado in macchina, che non mi bagno, e me ne vado nei parcheggi sotterranei e via. Va bene, dai, adesso tocca a Tore. Sto scendo malissimo, ma non male, malissimo. Sì, come se fossi in FM. Boh, non capisco cosa dici tu. Non si capisce nulla di quello che dici, perché non è forse fuori frequenza, non lo so. Cosa hai toccato? No, prima sta riuscendo bene, e adesso esce malissimo. Non so come ti ricevono gli altri, se li per dare. Riprendi Carlo. Eia, proviamo a rilanciare Daniele, sei ancora in ascolto. Vai Daniele, Daniele, Daniele, ci senti? Ma il grande Roberto Quadrato, che fine ha fatto? Da quando è diventato radioamatore, è diventato una persona importante e via. No, già stai entrando, Eugenio, tanto che è la classe. Ogni tanto fa cucù. Boh, non si sente. Tore, Tore sta arrivando, sì, sempre col solito segnale suo. Qua mi arriva anche 9 più 20, Tore. Ma la radio, Tore, non sta uscendo, cioè non si capisce niente. Quasi muta e poi fa qualche scorreggetta, ma non si capisce niente. Cambia apparato, tu, cambia apparato, magari hai toccato qualcosa lì. Controlla a vedere Mike, come l'hai alzato, che non abbia alzato troppo. Ha cambiato apparato, avanza. Pensavo che esce più bene. Esce, usciva ben male, Vittorio, non si capiva nulla. E voi ne so, posto bene. Deve essere che c'è qualcosa, che no. Peggio di un cavo, no? Ma non vedi, qua sei chiaro, più forte il segnale, sei un figurino. Con questo esce bene, esce di lusso. L'altro deve essere, o ha toccato qualcosa per sbaglio. E ho staccato il processore anche, ho staccato. Ma il processore quello tu l'hai attaccato, si sentiva bene, sentiva benissimo. Tu non mi sei alzato a 50, sei alzato. Anzi, più di 50. E deve abbassare il power, non il processore, non è il processore. Deve abbassare il power, quando sale troppo abbassi il power. Sì, va bene. Domani se ci sono lo torno a accendere a farlo scaldare prima e poi vediamo come esce. Oh, è strano, perché aveva già scaldato l'apparato quando tu hai parlato e ci uscivi bene. Secondo me hai alzato il processore troppo, magari mai il processore il power. Devi abbassare un po' il power per vedere se riesce la radio a riprendersi. Infatti ho toccato quello, ho toccato, l'ho spostato. Non me ne sono capitato dove l'ho toccato. Vabbè, domani lo metto, torna in sesto. Io devo regolare una volta a non toccarlo più. Non devi ascoltare a nessuno, perché anche a me mi dicevano alza, bassa, fai, cova, e mi mangiare in casino. Mi sono incazzato e me l'ho venuto, perché stavano sempre così, alza, bassa, l'altro diceva che era basso, uno diceva che era alto. E allora basta, no, mi hanno rotto quegli apparati, mi piacciono più baracchini. Infatti, più bravo. Sono un po' vendemmiro. Ma stai usando il K tu? Già. No, io il K non ne ho, sto usando il Galaxy. Ah, sto usando il Galaxy, è bello il Galaxy. Io ce l'avevo, l'ho venduto per un pugno. È male fatto, perché poi non se ne trovano più. Il fatto è quello, che spariscono, poi non si trovano più. No, io questo me lo tengo, se mi va bene me lo tengo sempre, non me lo vendo. Me l'hanno chiesto diversi, ma non l'ho mai venduto. E vabbè, comunque, è un apparato che va bene, perché la radio muore. Sì, no, vai per carità, no, va bene, va bene, va benissimo, lui ha voglia. No, io l'ho dato perché questo Barrazzone, no, non via zia. E invece a me mi piace proprio per quello, la stazione base per me deve essere con apparecchi base, non con veicolari. E avevo fatto fare un mobile apposta, dove ci sta Galaxy, ci stanno altri apparecchi, ci stanno tutti gli alimentatori, cioè ripiani, no? Poi chiudi gli sportelli e non vedi più nulla. Ma il Galaxy è comodo per quello, perché non ha bisogno, non ha necessità di alimentatore, lo attacchi alla 220 e stai andando, è comodo per quello. Poi, vabbè, io parlo per me era troppo ingombrante. Vabbè, io lo spazio ce l'ho, quindi no, a me non mi dà nessun tipo di fastidio, una volta che chiudo gli sputteri non vedo più nulla. Questa era l'idea della mia ex moglie, che non voleva vedere gli apparati, non li sopportava e quindi dovevo chiuderlo per non vedersi nulla. Avanti, Carlo. Lascia stare tutto così, Gianni, che già va bene la tua stazione e hai quel bel mobile e quindi lo spazio non ti manca, per cui va benissimo, altro che. E qui lo stesso, io mi sono sistemato, c'ho sulla scrivania il 140 da una parte, dall'altra parte c'ho il chiamiamolo baracchino, anche se non è proprio baracchino, che ha un sollevatore ed è molto comodo, capito? E poi in mezzo c'ho il computer e quindi per adesso mi sono aggiustato così. Adesso quando fa tempo buono vedo di migliorare con l'antenna, dopodiché mi fermo così. Sì, sei a posto tu. Ma sì che è regolato e non lo tocchi più, va bene, ma quando devi stare toccando, difendi, prima c'era un bedigente, uno ti diceva abbassa, l'altro diceva alza, l'altro diceva che lo stavo splatterando di abbassare, qua, lascia perdere, che mi venivano a server ogni volta. Perché usa il microfono normale? Perché così è regolato, mi chiede a manetta, processore inserito e nessuno può dirle niente. Con 60, secondo dove sei, i febbri del giromidollo, curarecci, per quello già. Vabbè, ma gli altri non si mettono problemi, quando devi attaccare e splatterano, io mi sono dovuto cambiare gli apparecchi perché io c'avevo l'ala 48 modificato, non quello che avevo comprato da te, un altro che mi ha dato Gigi che non me lo voleva dare. Mi ha detto che era il suo primo apparato, che non lo dava, era fatto bene, eccetera, eccetera, non me lo voleva dare. Gliel'ho pagato bene, però era un baracchino che usciva ben bene. L'ho dovuto vendere perché mi splatteravano per le mattine splattere, e quello è il problema della 48, se no era fatto bene, cioè era, c'aveva gli adesivi sopra, era bellissimo. L'era 48 è nato per la macchina, per il camion, capito? Per il commerciale, da casa anch'io l'ho avuto, ma anch'io quello che ho fatto a te non lo usavo a casa, carbonazio, ma non si muoveva a TB, sentivo i camionisti nella 131, mi splatteravano, fate un conto. Vabbè, ma infatti gli altri non se ne creavano problemi, governi erano attaccati e tante cose, no? Soprattutto lì perché tu sei in una zona molto particolare dove c'hai tutto in giro e quindi è chiaro che è così. Però Carlo va veramente alla grande, io l'ho regolato a caldo, lui non lo tocca perché sa com'è il funzionamento oramai, microfono normale, il Michigan ce l'ha al massimo perché deve andare al massimo col microfono normale, processore inserito ed esce una meraviglia Carlo, veramente molto bene. Sì, non sembra manco 140, è proprio una voce limpida, non è prepotente ma è limpida. Già, lo sai, io quando mi chiedono le cose io le faccio col cuore, come che sia roba per me. C'era questa occasione, io a Carlo ne avevo già parlato tempo fa, mi ha detto aspetta, che c'ho altre cose da fare, come si è sistemato se l'ha preso. È nuova, bella, tranquilla, non c'erano neanche i decimali, gli ho inseriti i decimali 00, perché in 27 non ho mai lavorato con la radio, lavorava sempre in 40 e in 80, capito, che era di un radioamatore anziano, sai, questi amanti di queste radio, per cui adesso un sacco di radioamatori, neanche qua, in 80 metri. Eccolo qua Alberto. Alberto sta usando un 430. Sta andando normalmente di moda queste radio vecchie per gli radioamatori, perché costano poco e ti dà la possibilità di fare qualcosa, capito? Escono bene soprattutto, non hanno problemi lì. Sono chiare come radio, pure anche lui ha sempre fatto delle apparecchiature a parte la radio amatoriale, ha fatto anche belli stereo per la macchina eccetera, la Kenwood è una buona marca dai. Ma è fallita oramai, non esiste più, tanto è vero che l'ha comprato la Icom con la IAIS, no, la IAIS l'ha fatta, la IAIS mi pare l'abbia comprata, non mi ricordo, comunque anziché TS c'è FT, capito, FT450, FT430, FT, capito, perché è IAIS, vabbè. è così, però chi ce li ha se le tiene quelle radio, perché funzionano bene. Io viaggio 20 anni, io sono stato a Sassa il primo, assieme a Marco 131, che abbiamo comprato il 430 da Mario Nottari, ok, poi dopo due anni li ho versato, ho preso il 440, da lì ho iniziato la battaglia. Tutti li ho usati, tutti, 940, 930, 920, tutta la serie anche ibrida, quella transistorizzata e valvolare, tutti li ho usati, e ancora viraggio, perché 27 a me il baracchino non mi piace, mi trovo meglio con questi, va bene, non monopolizziamo, facciamo girare che tocca, genio, non c'è più, o è uscito in moto a prendere freddo a quei pochi capelli che le sono rimasti? No, sono qua, sono qua. No, sono rientrato poco fa, ero in giro in moto. L'ultimo freddo, non ti preoccupare, la giubilato freddo al porto. E niente, no, lo stesso, a me piacciono gli apparati, a me i baracchini non mi piacciono più. Ne ho visto uno, un Icom, bello, mi piace, se riesco... Boh, adesso vediamo. Ma come si chiama? 575H, cos'è? Nero? Eia, eia, eia, il 575, bello, eh? L'apparato. Ma state mi pare che te punto dolce. E quello è simile al 140, al 440, ma c'ha più. C'è un sistema diverso, ho capito, è un quattro conversioni, tutto insomma, è molto, molto più serio, dai, molto più serio. Vanno molto bene anche in AM, quelli vanno bene in AM perché sono analogici, capito? Va bene, chi tocca? Chi c'è rimasto ancora? Già, tu che sei capomaglia qua, chi è? Chi c'è ancora? Fabio, c'era Alessio, c'era anche Daniele. Ah, Daniele, dimmi Daniele. Eccomi, eccomi. Dammi un controllo, Dario. Perfetto, sì. Sì, in mezzo tra l'8 e il 9. Stai arrivando un bel forte oggi. Sì, tra l'8 e il 9, Radio Super 5. Beh, no, tu sei calato invece. Che stasera ho fatto quarantena, sono una controllata a voi. Sono il tuo vicinario, ormai su tutto. Sto facendo la prova, vedere come altezza, se ne va bene o che cosa. Per evitare quel fischio, Daniele, prendi il cavo dove ce l'hai sotto la radio? Sì, il cavo del microfono, toglio da sotto la radio, mettitelo davanti sulla scrivania, allargalo, vedrai che non fischia più. Adesso sta fischiando, vedi, adesso è tranquillo, ho portato tutto. Sta fischia. Però fischia ci mette la mano sopra a fare massa. No, la mano mettitela in culo. Ti ho detto togli il cavo sotto la radio e mettilo nella scrivania, il cavo, lo spiralato, fallo vedere, toglio da sotto la radio. No, tocca, mi spesso è libero. Togli la mano dalla radio. No, tanto, la sto usando adesso la mano, solo quando sento che innesca, allora la metto sopra. Quando fa pure, perché non sempre ci riesco a fargli fare massa. Hai visto che non sta fischiando? Questo quando vi parlo vi perdo. Dove mettete i cavi sotto? Ma lo che non sia un cavo non spiralato di quelli schermati, capite? Quelli schermati da wifi, quelli lì, che io l'ho fatto fare da Fabrizio 1, perché mi ero rotto le palle proprio con quel sistema lì, perché lo spiralato mi dà fastidio, io c'ho poco posto, mi dà fastidio. Però se lo mettete sotto la radio, quello spiralato lì è una schermatura del cacchio, capito? Leggera, leggera, e quindi va a prendersi. Come tu schiacci il PTT va a fare rientro dal connettore di ingresso alla radio e quindi ti fischia. Se invece lo allontani lo spiralato dalla radio, lo togli là sotto, non ti fischierà mai, capito? Avete cavi di bugnetta, vai Carlo. Eia, io già non c'ho niente sotto, tutto davanti. Eugenio, mi stavi dicendo qualcosa? No, non stavo dicendo niente, io ho risolto il fischio, io non fischio più. E secondo te cosa hai fatto? Cosa ti ha detto Claudio Sparviero? Tu c'hai pochi capelli, ma sei intelligente. Che ti insegno a usare il radio? Tu mi insegno? Canto di voglio vega. va bene, vai, ma Torre Sciatto lo metto, Torre Squalo c'è? Sì che ci sono, sono qua, sto ascoltando anche. Ma non devi ascoltare, devi parlare Torre, dove c'è uno squalo, devi mangiare subito, tata. Sì che posso, poi devo andare a pigliare la signora, che non mi chiama. Ma, oi, a qualche bagaglio da sì, domani, manco ci mi baganisco che c'ho da io, oh yeah. Oh, già è vicino a Sant'Orsola, 5 minuti e 5 minuti a salire, sono a posto. Ma lo vedo che ti piglia la iata pure, sta così bene a Carduccio, ma, oh yeah, yeah. Oh, pugno! Sto uscendo un secondo e poi rientro fra poco, non c'è problema. Comunque c'ho l'apparecchio acceso, già lo sai, in PMA. Ieri sera è entrato qualcuno che era fondo scala, inchiodato, quindi non c'era nessuno di quei segnali a un certo punto, quindi se vuole entrare a salutarmi non c'è problema, se no se la prende in culo, se la prende. No, ma non è così, ti voglio, adesso esci, fai quello che devi fare e poi ritorna a casa Alessi, vai, c'è un corrotto, ma ho sentito il cane poco fa, lui è che stava piangendo. Infatti vi saluto, dai, sto andando, mi stavo vestendo. Dai, vi saluto, buon proseguimento, grazie per il QSO, buona serata a tutti. Ciao Gianni, alle prossimine, vai Carré. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, ciao. Col cagnolino, non so se c'è ancora Daniele, se vuole salutare. Daniele, saluta Gianni, Daniele che è giù dalla Gadria, vai genio. Ciao, Fonzo, Pompugno, ma mi interessa la cagosa. Ci sentiamo, ciao anche a te Gianni, ti vediamo, ci sentiamo. Io tra un po' con il suo mangiamo una pizza. Guarda, sono tutto quanto a posto io, già lo sai, quindi a un certo punto il problema è, sai cosa mi è venuto il dubbio? Perché il segnale su in pratica UHF è arrivato a fondo scala ma è inchiodato, sai cosa vuol dire? Non ci arriva nessuno, ma neanche mio nipote addirittura da sotto casa, quindi qualcuno mi ha dato qualche avviso e mi ha dato. Hai capito? E questo mi si girano le balle, mi si girano veramente le balle, mi si girano. È come se avessi avuto l'antenna, uno a 50 metri, uno all'altro, il discorso è quello. Mai ci è arrivato mio nipote così, cazzo, di laggiù. Quindi a un certo punto questo avviso mi... vabbè, ma comunque sia, spero che non ne arrivi neanche a lui una cosa del genere, ma comunque sia, io non ho mai parlato a nessuno, il discorso è solamente quello, solamente trasmettere quello, non ho mai rotto le balle a nessuno, quindi non voglio che non fanno le balle a me, il discorso è tutto lì. Io ho visto cazzo su sette in PMR, il segnale fondo scala ma inchiodato, sai cosa è inchiodato? Tipo non era un segnale normale, era un segnale Kenwood, capito? Hai capito? Quello mi ha dato fastidio, era un segnale Kenwood, tutto lì, perché era inchiodato, tutto lì. Vabbè, comunque sia, no, non me ne fate un cazzo. Chiunque voglia farmi un coso, che me lo faccia. Altro non posso dire, io non incolpo nessuno e non voglio che nessuno incolpi a me, il discorso è quello, tutto lì. Sereno, ti ho detto, vai a fare quello che devi fare, a fotti i dinti, stai tranquillo, no, non ti preoccupare, ok? Quindi Vieni Gianni, è uscito, vai Tore. Asco, vi devo lasciare, che sto andando a prendere la signora. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao a tutti, statemi bene. Ciao Tore, ci sentiamo alle prossime seconde. Ciao ciao Tore, buona serata, buon tutto. Ciao Giotto, alle prossime, alle prossime. Sentimo, va bene. Ok, dove vai oggi a mangiare la pizza? Da Massimiliano? Da Massimiliano, da Massimiliano. Ciria. Ehi, in Piazza Garibaldi? No. Vado, stavolta vado a Pepito. Ah, la Pepito, sì, buona. Siamo andati, noi a volte andiamo come fratello quando organizziamo lì a Porto Torres e a, come ti diciamo, diceva in Via Torre Sciacchi, alla fine Via Torre Sciacchi, in via della discoteca. Alla fine Via Torre Sciacchi, dove c'è la discoteca? Dove c'era la discoteca? All'angolo, fine di Via Torre Sciacchi, proprio alla fine, all'angolo con Via Balai, come si chiama quello? Da mio collega, è quello mio collega. Quando vai, diglielo, io sono amico di Eugenio, vai diglielo. C'è Alessandro, quello con le paranze, stai dicendo. Buona, pizza, mi ha fatto la pace sempre lì. Andiamo io, Cosio, il marito Macelaghi, ecco, tutta la greffa, andiamo sempre lì, perché è un bel buona. Sì, anche lì la fanno buona, sì. Dal mio collega, da Alessandro. Ok, però vabbè, sta oggi, ma io non ho una fissa, io giro, non ho un problema, io giro. Sono andato anche l'altro giorno a Massimo Ciria, vado anche alla Rosa dei Venti, vado al mio collega, non ho problemi, io giro, mi piace girare. Anche la Rosa dei Venti è buona, si aggavino. Sì, quando vado a Porto c'è quelle pizzerie, o Piazza Garibaldi, o la Rosa dei Venti, o da lì da Alessandro, a Paranza, o a San Gavino, quelle sono le mie pizzerie. Qua a Sassari, vabbè, a Sassari io non vado, ma è la pizza. Sassari vado, me la compro e me la porto a casa. E me lo voglio a casa, no, stanotte c'è la coratella con la cipolla e il vino bianco, un bicchiere di vino e felicità, anche se non posso bere il vino, ma me lo bevo stanotte un bicchiere, mezzo bicchiere, perché ho preso il cortisone. Avanti Carletto, te ne metto io il vino mio, non c'è problema. Coratella, anche io ci vado matto, ogni tanto anche io la faccio, o coratella, oppure se trovo fegato di vitello tenero, me lo faccio alla veneziana con un cucchiaio di aceto bianco e le cipolle, ed è un bonbon, ogni tanto me lo faccio anch'io. Stanotte ancora devo organizzarmela la cena, non so, già c'ho un po' di tutto in frigorifero, per cui c'ho carne, insomma, insalata, formaggio. Grandi cucine no, di notte, io mangio leggero la notte, perché poi vado a letto presto, perché faccio le alzatacce la mattina e quindi ci vado leggero la notte, ma a pranzo già mi faccio cose più appetitose. Bene Meda, vai Eugenio! No, a me la coratella non mi si va, non ci c'è né la coratella né la pecora. Va bene, comunque dai cinesi ne vendono le spugne per i microfoni, lo sapete? Non lo so.